Metto a posto nella mia alma l'ordine cosmologico. L'ordine, questa roba visionaria, uomo. Mi piangono dentro, trovano dentro, si salvano dentro. La soluzione sta dentro me, dentro il mio blood, dentro il mio mood, dentro il mio fango. Perché, frate, non c'è inganno se l'uomo frate, vive mi sono in genio ripulito. non gettare fango Fango, nella stanza di stanza, cristallo, stanza. tutto si sporcherà. Tutto si sporcherà. Questa è la mia vita, la prendo fino in fondo, prendo per le mani una Una matita, matita, matita. una matita. Sono le mie palle, fra quello che nessuno è capace di dire. Io lo scrivo su un foglio, lo racconto, un testo che mi sappia Lo elevare, racconto. qualcosa che vada oltre la malattia Oltre mentale. la Non malattia c'è. mentale, Non ci sei nei giorni miei, eppure ci sei eppure ci dentro. sei. Non ti perdo, l'anima vola per poi ritrovarti a stento. Stento. Dentro di me tu Dentro fai di l'unplay. me. Scrivo il mio testo come non ci fosse un verso perfetto per Scrivere descriverti. Sei la cosa più bella bella, che miri c'è. tu. Accendi questa stanza della tua Presenza. presenza, del tuo amore, della tua arroganza. Sei pieno che mi fa sei tutto quanto, c'è solo una mentre tra me e te, qualcosa che mi porta su non penso alle macchine, ma Non penso penso alle a te, macchine. sei la cosa più bella che c'è, Più bella che c'è. This is a little boy since, cause I'm a boy too since you, sono un bambino per sempre, sempre. Sempre. Vorrei giocare nella mente con te. Mente. La stanza è piccola, ma dipingendo giorno per giorno si è fatta Grande. grande. Dipingo tutto quanto. Dipingo come non ci fosse un domani. Nel mondo c'è sempre qualcosa che ci infangherà, ma solo a Fangherà, ma metà. Non c'è mai un fango abbastanza grosso per chi tiene le mani a posto. tiene le mani a posto. Tutto dentro di me si solve, come un inevitable quiz. È per questo che io rimango con te. Frate, io sono un VIP, VIP. Vips, Lei è la mia Vips, Vips. yeah. Giro coi fra che non sanno dove andare, ma non hanno una terra. Ho scritto per loro una terra, Scritto la per nuova loro una terra, Azkaban. Mi Azkaban. piangono dentro. Io cosa faccio? Cosa faccio? Ho il Cosa diavolo faccio? dentro, Cosa cosa faccio? faccio? E cosa Andiamo faccio con dentro, loro cosa dentro che mi faccio, no? piangono e Miri che mi piange dentro? What's happened now? E What's non è solo un happened now? lamento, no, no, è questione di andare, questione di crescere, far sognare la nuova generazione mondiale, dare un posto, una terra meno deserta. Scrivo nel deserto un posto che un'oasi che possa far crescere gente, e i bambini ci giocano dentro fra. La nuova Azkaban.